Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Chi denuncia la camorra per racket o usura non pagherà le tasse comunali per 3 anni. Accade a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, comune sciolto per collusione con i clan nel 2009. L'ha stabilito la commissione prefettizia che governa la città. Il prefetto Cinzia Guercio, il viceprefetto Paolo Aspena e il funzionario del Ministero degli Interni Raffaele Barbato pochi giorni fa hanno unanimemente deliberato la direttiva comunale che mira a riportare il massimo della legalità in una cittadina che negli ultimi 20 anni ha dovuto subire per ben 2 volte l'onta dello scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Repubblica. Un segnale importante, ha spiegato il prefetto Cinzia Guercio, che servirà a spronare un rientro nella legalità. Secondo i commissari prefettizi di San Giuseppe Vesuviano, la malavita organizzata, che qui è riconducibile prevalentemente al clan Fabrocino, è penetrata così tanto nella vita del paese da esserne divenuta quasi una parte integrante. È logico che bisognerà fornire una prova concreta della collaborazione, esibendo denunce o istruttorie specifiche effettuate in collaborazione con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. Un commissariamento che, come riporta il Mattino di Napoli, ha registrato anche un inedito siparietto in relazione ad una sentenza del TAR del maggio 2010 che riammise vecchi amministratori e a una decisione conclusiva del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2011 che riportò in sella i commissari prefettizi in carica fino all'agosto di quest'anno, una data che però potrebbe allungarsi fino al giorno delle elezioni comunali presumibilmente previste nella primavera 2013. E a chi teme che questa scelta svuoterà le casse comunali, il prefetto Cinzia Guercio risponde con serenità: abbiamo vari introiti, non si preoccupassero i cittadini, è più importante che le estorsioni non avvengano più.